Carlo, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La legge che assolve Callisto Tanzi e Cesare Geronzi. Nel decreto varato dal governo per salvare Alitalia si nasconde una norma che potrebbe evitare la condanna a Sergio Cragnotti, Cesare Geronzi e Callisto Tanzi, coinvolti nel crack Cirio e Parmalat. A svelarlo è un'inchiesta del programma Report di Rai 3. Secondo il provvedimento, se non c'è stato il fallimento delle società coinvolte negli scandali finanziari, i reati commessi dai manager non sono perseguibili. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. È il quotidiano La Repubblica a svelare questa cosa, che peraltro non è svelata La Repubblica, ma come vedremo verrà svelata da la giornalista Gabanelli a Report. Un'altra, scrive Eliana Milella sulla Repubblica. E per chi stavolta? Ma per Cesare Geronzi, il presidente di Mediobanca, negli impicci giudiziari per via dei crack Parmalat e Cirio. La fabbrica permanente delle leggi ad personam, scrive Liana Milella sulla Repubblica, col marchio di fedeltà del governo Berlusconi, ne produce un'altra, infilata nelle pieghe della legge di conversione del decreto Alitalia. Non se ne accorge nessuno dell'opposizione, si intende, quando il 2 ottobre passa al Senato. Eppure, come già si scrivono magistrati nelle mailing list, si tratta di una bomba atomica destinata a far saltare per aria a ripetizione non solo i vecchi processi per bancarotta fraudolenta, ma a bloccare quelli futuri. Con un semplice e invero anche mal scritto articolo 7 bis che modifica la legge Marzano sui salvataggi delle grandi imprese e quella sul diritto fallimentare del 42, l'emendamento dice che per essere perseguiti penalmente per una mala gestione aziendale è necessario che l'impresa si trovi in stato di fallimento. Se invece è guidata da un commissario, e magari va anche bene, come nel caso della Parmalat, nessun pubblico ministero potrà mettere sotto processo chi ha determinato la crisi. Addio ai processi Parmalat e Cirio, in salvo Tanzi e Cragnotti, salvacondotto per l'ex presidente di Capitalia Cesare Geronzi, colpo di spugna anche per scandali di minore portata come quello di Giacomelli della Eldo di Postal Market. Insomma, questa è l'ipotesi avanzata da Report, che viene annunciata e abbastanza direi clamorosa da parte della Repubblica, perché se così fosse davvero, insomma, si aprirebbe un nuovo caso di leggi ad personam. Ora che in qualche modo come dire, e poi forse anche qualche fenomeno di scambio politico dietro gli schermi della vicenda all'Italia. Ecco, questo scrive il quotidiano La Repubblica e mi pare che sia l'unico quotidiano a rilevare questa cosa. E vi è comunque un altro elemento, leggendo La Repubblica, che va sottolineato fortemente, e questa volta è di carattere diverso, di carattere politico editoriale, cioè il fatto che il quotidiano La Repubblica, con la firma di Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, appoggia in modo piuttosto esplicito l'iniziativa presa dal governo Berlusconi. Non capita tutti i giorni che questo quotidiano difenda le scelte del governo Berlusconi in materia, che cosa? Sul tema del giorno, un fondo per salvare le banche italiane. Questo è il titolo di apertura della Repubblica, ma Giannini scrive: due mosse, un'incognita. I risparmiatori non perderanno un euro, lo Stato padrone non tornerà. Se queste due promesse, scrive Massimo Giannini, fossero vere, dovremmo accogliere con favore il decreto anticrisi varato per fronteggiare la tempesta perfetta che sta travolgendo il sistema bancario mondiale. mondiale. Non si può dire che Berlusconi e Tremonti non siano stati rapidi nell'azione e convincenti nella comunicazione. Il governo ha dato un segnale forte e insieme rassicurante, almeno nella forma. Giannini argomenta questa presa di posizione, il coinvolgimento diretto del governatore della Banca d'Italia nella preparazione e nell'illustrazione dei provvedimenti restituisce ai cittadini almeno sulla carta l'immagine di una coesione istituzionale importante, se poi verrà anche quella politica e se il Cavaliere smetterà di fregarsene del contributo dell'opposizione sarà un altro passo significativo sulla via della civiltà politica e della responsabilità nazionale. Dice Giannini, tra le altre cose, è importante che Berlusconi e Tremonti abbiano deciso di non seguire l'esempio inglese e olandese, dunque no alle nazionalizzazioni, all'ingresso diretto dello Stato nella proprietà e nella gestione degli istituti di credito in crisi. Se questa filosofia è sincera, va dato atto al governo di aver evitato una forma di socialismo finanziario pericoloso per i destini dell'economia di mercato. Ora, c'è un sospetto di Massimo Giannini, dice attenzione però, qualcosa ci autorizza a qualche sospetto. Nel caso in cui la Banca d'Italia decida sull'opportunità di ripatrimonializzare una banca e il Tesoro intervenga direttamente nel suo capitale, scatta anche la rimozione automatica del management responsabile. Insomma, dice la Repubblica, il sospetto è che questo codicillo che c'è nel decreto legge per il fondo possa, come dire, dare dei poteri al governo di intervenire sui manager delle banche e scegliere quindi i propri manager. Questo dice in sostanza la Repubblica, quindi c'è un'ombra, nonostante l'appoggio esplicito del quotidiano della Repubblica all'iniziativa del governo. Il Vaticano, razzismo contro gli immigrati, è il Corriere della Sera che dà voce allo scontro potenziale e non più tanto potenziale tra il governo Berlusconi e la stessa Chiesa Cattolica sull'integrazione degli immigrati dal sud del mondo. Scrive Massimo Franco a proposito di questa questione, tensione strisciante sulla prima pagina del Corriere della Sera: il contrasto è limitato al tema dell'immigrazione, ma riflette uno scontro culturale profondo tra una parte del PDL, cioè il partito di maggioranza che governa attualmente, e il Vaticano. C'è uno scontro culturale in atto tra PDL e Chiesa Cattolica sull'integrazione degli immigrati nel sud del mondo, dicevamo, è significativo. Che cosa? Per il governo e in particolare per Maroni del suo partito, scrive ancora Franco, esiste un'emergenza, occorre fermare le barche dei disperati che arrivano in Italia dalle coste della Libia e di altri paesi mediterranei. Si tratta di uno degli argomenti cardine della strategia di Umberto Bossi, quello su cui ha preso voti e costruito buona parte della sua identità, tanto da indurre Roberto Calderoli a immaginare un soggiorno a punti. Per il Vaticano la questione degli immigrati, siano profughi o rifugiati, è una questione con implicazioni georeligiose prevalenti sulle preoccupazioni politiche. È significativo il modo con cui ieri il cardinale Renato Raffaele Martino ha presentato il discorso che Benedetto XVI farà a gennaio per la giornata mondiale del migrante e dell'immigrazione, ammonendo insieme l'Italia e l'intero Occidente. E in effetti le parole di questi due alti esponenti della Chiesa sono molto pesanti. A commento del documento papale, il cardinale Martino ha affermato che il clima di chiusura che sta facendosi dominante nei paesi ricchi a rendere ancor più amara la vicenda umana di molti immigrati, spingendoli a condizioni di irregolarità. L'arcivescovo Marchetto ha osservato che l'atteggiamento di solidarietà a cui il cristiano è chiamato contraddice gli attuali comportamenti di discriminazione, xenofobia e razzismo. Interrogato sull'emendamento proposto dalla Lega Nord, Marchetto ha detto che bisogna pensarci profondamente perché tocca questioni delicate come il matrimonio e la salute. Per ora si conoscono solo notizie di stampa, ma la Chiesa ha una sensibilità particolare, una sollecitudine verso i matrimoni e verso l'assistenza sanitaria. Ecco, questo è evidente, quindi, che anche perché stiamo parlando di cardinale Renato Martino e l'arcivescovo Agostino Marchetto, presidente e segretario del Consiglio per i migranti e quindi diciamo alti esponenti della Chiesa. C'è anche un'intervista alla Russa che dice ma la Chiesa non è infallibile. Il Corriere della Sera poi dedica, affida anzi, a Francesco Giavazzi, economista liberista, un editoriale di prima pagina su il fantasma delle regole a proposito del capitalismo, dei cicli, della crisi. Insomma, pensare che sia possibile grazie a regole migliori, scrive Giavazzi a proposito della crisi in atto, e regolatori illuminati, eliminare il rischio e quindi la crisi è una sciocchezza. Dice Giavazzi ancora, il rischio è l'anima del capitalismo, perché il mestiere dell'imprenditore e del banchiere è cercare occasioni rischiose e scommettere sulla propria capacità di vincere. Regole perfette, capaci di eliminare le crisi, non esistono. Quindi è molto netta la posizione di Giavazzi a proposito di come intervenire sulla crisi. Sono esistite solo nell'economia sovietica e si riducono a una norma semplice, la proibizione della libera impresa. E ancora, alla radice di questa crisi c'è la scarsa capitalizzazione del sistema finanziario, per uscire è necessario che il nuovo capitale affluisca alle banche. Quindi il Corriere della Sera, ripeto, dà molto spazio a Giavazzi per dire attenzione, non ci sono regole che possono, un messaggio devo dire un po' senza speranza, perché se non ci sono regole per intervenire sulla crisi, allora siamo davvero nei guai. Questo il Corriere della Sera, ma io voglio invece spostarmi un attimo sul Riformista, perché rimaniamo su alcuni nomi che abbiamo citato. E che cosa fa il Riformista, come lo fa Libero e come in tono minore lo fa La Stampa? Fa un'anticipazione di un libro che uscirà, che è uscito insomma, di Gianni Dragoni, che è un giornalista del Sole 24 Ore, e Giorgio Meletti, che lavora alla 7, giornalisti della 7. Allora, si chiama La paga dei padroni, stipendio per stipendio. Come in ogni situazione di crisi si cerca qualcuno a cui addossare la colpa. Bisogna trovare i colpevoli, diceva pochi giorni fa il premier Silvio Berlusconi, che lui indicava nei manager disinvolti. La politica non solo italiana, scrive il Riformista, ha capito che ad attaccare amministratori delegati con un nome, un cognome e soprattutto uno stipendio si ottengono più consensi che prendendosela con gli speculatori senza volto. Anche in Italia i manager guadagnano bene. Nel 2007 il 93% dei dirigenti italiani ha incassato ricchi bonus dovuti al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Sono davvero così bravi? Se li meritano? Quasi mai, rispondono Gianni Dragoni e Giorgio Meletti, autori appunti del libro La paga dei padroni, da oggi in libreria. E effettivamente, insomma, ci sono alcune cifre da brivido che vengono pubblicate dal Riformista e prese dal libro di Meletti e Dragoni. Beh, badate, le liquidazioni del 2007, prendiamo questa scheda. Nome azienda, milioni di euro. Matteo Arpe, ex amministratore delegato di Capitalia, è stato liquidato con 31,2 milioni di euro. Cesare Geronzi, presidente di Capitalia, di cui abbiamo sentito parlare prima nel servizio della Repubblica, dove si dice che ci sarebbe nel dispositivo di salvataggio all'Italia anche un dispositivo di salvataggio di Cragnotti, Geronzi e altri manager coinvolti negli scandali Cirio e Parmalat. E dicevo comunque, Cesare Geronzi, azienda, presidente Capitalia, 20 milioni di euro. Giovanni Bazzoli, presidente ex Banca Intesa, 10 milioni di euro. Riccardo Ruggero, amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia, 9,9 milioni di euro. Gabriele Galateri di Genola, presidente Telecom Italia, 8 milioni di euro. Queste sono le liquidazioni del 2007, secondo questa scheda. Gli stipendi del 2007. Ecco un'altra perla di questo libro appena uscito. Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredit, 9,4 milioni di euro. Fausto Marchionni, amministratore delegato di Fondiaria SAI, 7,2 milioni di euro. Luca Cordero di Montezemolo, presidente Fiat e Ferrari, ex presidente di Confindustria, 7,2 7,1 milioni di euro. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, 6,9 milioni di euro. Marco Tronchetti Provera, presidente Camfin e Pirelli, 6,1 milioni di euro. Insomma, queste sono le schede che vengono presentate dal Riformista e sono contenute, lo ripeto ancora, nel libro di Gianni Dragoni e Giorgio Meletti, La paga dei padroni, libro che probabilmente farà molto discutere, perché si tratta sostanzialmente di una nuova casta, non nuova, ma una casta tutta privata e che niente a che fare con la casta, come dire, pubblica di cui si è parlato tanto. Questo il Riformista a proposito dell'anticipazione del libro di Meletti e Dragoni. Il Sole 24 Ore invece, come dire, apre su rete di sicurezza per le banche italiane, garanzia statale su depositi e conti correnti, al tesoro azioni senza voto in caso di sostegno patrimoniale. Quello che si diceva, il tesoro potrebbe intervenire nelle banche qualora, ma non ci sono, come dire, segnali per fortuna in questo senso, qualora qualche banca avesse bisogno di essere ricapitalizzata, ma senza diritto di voto sostanzialmente, solo un finanziamento, una presenza, ma potrebbe intervenire e decidere della bontà o meno del manager che fino a quel momento ha portato quella banca, qualora ci fosse, al disastro. Guido Gentili scrive un editoriale: diga necessaria per ritrovare un po' di fiducia, che lo Stato italiano possa intervenire a sostegno dei risparmiatori e che su questa strada possa decidere interventi tali da incidere sul sistema bancario, sta scritto nella Costituzione. L'articolo 47 afferma: la Repubblica incoraggia la tutela del risparmio e in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, eccetera eccetera. La decisione presa dal governo hanno seguito, per così dire, questa bussola primordiale che data 1948. Questo scrive Guido Gentili sulla prima pagina del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che dedica a un sacco di servizi. I fondi pensione limitano i danni, da inizio anno discese del 3-4%, e poi ancora il nodo delle passività creditizie di Alberto Alesina e Guido Tabellini. Per i mutui ho perso il posto quando i big chiudono, Mauro Muraro, e c'è una lettera al direttore Ferruccio De Bortoli. Le famiglie italiane sono indebitate 3 volte meno di quelle tedesche. Ecco, questo è l'articolo che compare sul Messaggero a firma Marco Fortis, una buona notizia, perché ci dice che insomma dà una risposta alle preoccupazioni che non possono, sulle quali non bisogna abbassare la guardia, però insomma scrive Marco Fortis: al contrario, a fine agosto 2008, secondo dati della BCE, l'indebitamento complessivo delle famiglie italiane superava solo di poco il 30% del PIL del 2007, essendo pari a 463 miliardi di euro, l'esposizione, no? Questo è l'indebitamento, contro gli 878 miliardi delle famiglie spagnole, i 916 miliardi di quelle francesi e addirittura i 1411 miliardi di quelle tedesche. In particolare, l'ammontare dei prestiti erogati da istituzioni finanziarie e monetarie alle famiglie per l'acquisto della casa in Italia è di soli 259 miliardi di euro, una cifra pari a meno del 17% del nostro PIL, contro, per fare alcuni esempi, i 648 miliardi di Spagna, e ancora 62% del PIL, 156 miliardi in Irlanda, 66% del PIL, 245 miliardi in Danimarca, 108% del PIL, e 963 miliardi in Germania, 40% del PIL. Ci spiega Fortis che in questa inchiesta, e qual è, che questo è un punto di forza: le famiglie italiane sono sì indebitate, ma molto meno meno di quelle tedesche e non c'è neanche paragone con quelle inglesi e quelle americane, che sono stra indebitate, come si è visto dagli eventi poi che sono esplosi. Vi è interessante, non ho il tempo di leggerlo, ma anche il silenzio di Federico preso a calci dai compagni. C'è un'inchiesta di infanzia a rischio di Carla Massi, viaggio nel primo centro italiano per le vittime dei bulli. Pensate un po' voi, questo è il Messaggero. Il quotidiano La Stampa, intervista un personaggio importante di Wall Street, Bill Gross, il nuovo guru di Wall Street. Secondo questo servizio, il profeta che aveva visto la tempesta. Ora l'America è on sale, io raccolgo capitali e aspetto i buoni affari. Lo aveva previsto e si è avverato anche questa volta. Stiamo andando a una fase di rapida erosione del valore degli asset finanziari e la minaccia di pressione inflazionistica sarà presto alle spalle. Ecco, questa storia che l'inflazione è alle spalle è una cosa che ormai viene sostenuta da molti, che il problema non è più quello, ma anzi, casomai, il problema potrebbe essere quello della recessione. Racconto di questo personaggio: ha 44 anni, è stato in marina, è giocatore professionista di blackjack a Las Vegas, applica nella gestione degli investimenti i trucchi che ha imparato con le carte. Beh, insomma, ingaggio dal tesoro in nome di Bill Gross nella lista dei papabili che potrebbero collaborare con il tesoro USA come money manager nel piano di raccolta dei titoli tossici. E il quotidiano La Stampa affida invece a Mario De Aglio garanzie in cerca di fiducia. La giornata di ieri finirà nei libri di storia, scrive Mario De Aglio. Tre grandi temi hanno scandito le ore nervose e preoccupate di governi, operatori finanziari e cittadini. Il primo tema è largamente positivo e riguarda il successo del tentativo di coordinamento planetario. La concertazione mancata sabato al vertice europeo di Parigi, emersa poi in maniera assai pallida all'Ecofin di martedì a Lussemburgo, è stata trovata a livello mondiale mercoledì, quando in Europa era ora di pranzo. Quindi anche qui una buona notizia, perché è ancora Giuseppe Berta, di nuovo lo Stato come nel 29. Io volevo passare rapidamente al quotidiano Libero. Il quotidiano Libero apre Silvio: garantisco io. Varato il decreto per salvare i conti dei correntisti, cale il costo del denaro, borse ancora a picco. Ecco, e poi anche Libero fa l'operazione di anticipazione, il libro di Giorgio Meletti e Dragoni, e addirittura Libero fa questa operazione editoriale: ecco l'elenco dei 100 manager italiani che guadagnano di più, cioè pubblica praticamente i nomi di tutti i 100 i super guadagni dei mister finanza, la classifica dei 100 manager più pagati, 403 milioni di euro solo nel 2007, mamma mia. E ci sono anche qui le foto di Cesare Geronzi, che con accanto la cifra 24 milioni, di Riccardo Ruggero 17,3 milioni, di Carlo Buora 11,9 milioni, di Giovanni Bazzoli 11,5 milioni e appunto di Matteo Arpe di 37,4 milioni. Cambiano un po' le cifre, non capito il riferimento e come mai, ma comunque stiamo sempre parlando di cifre da capogiro. Il quotidiano Libero poi invece si occupa anche del dissenso che è esploso tra Paolo Guzzanti, senatore del PDL, editorialista del quotidiano Il Giornale, e Silvio Berlusconi. A proposito di che cosa? Della politica della Russia e di Putin. Guzzanti senior si allinea a Silvio, imbarazzante. L'onorevole di Forza Italia contro il Premier per il sostegno a Putin sulla Georgia, mentre la Carfagna attacca sua figlia Sabina, mentalmente fragile. Mentre la gente applaudiva, venerava, lui Paolo Guzzanti più modestamente vomitava, tutta colpa di Vladimir Putin e delle parole in suo favore che Silvio Berlusconi avrebbe pronunciato martedì sera nella sala del Mappamondo di Montecitorio nel corso dell'incontro con i deputati azzurri del Popolo della Libertà. Dice qual è il motivo di questo come dire inatteso dissenso tra Guzzanti e Berlusconi: le presunte parole del Premier a favore di Putin in merito al conflitto georgiano che Guzzanti ha riportato nel suo blog. Berlusconi ha riconfermato più volte in modo imbarazzante la sua amicizia con Putin, scrive il deputato azzurro. Quello che gli ha dato più fastidio però è stato il tono con cui Berlusconi ha ripetuto a megafono le storie della propaganda russa, dicendo che bisognava andare a prendere quello là, quel Saddam, che poi altri non sarebbe che il presidente georgiano Mikhail Saakashvili. Insomma, dice, un paragone utilizzato dallo stesso Putin a fini propagandistici, insomma Guzzanti è proprio in disaccordo questa volta con Silvio Berlusconi su questa sua amicizia politica con Putin. Ecco, il manifesto affida invece a Marco Deramo la disfatta del mercato e dice, insomma, la situazione è seria, poi hanno riferito la stessa solfa facendo a gara chi taglia più tasse, come se nel frattempo la situazione non fosse precipitata. Altro che New Deal, dice Marco Deramo. Io ho finito il mio tempo, allora volevo, prima di chiudere la rassegna stampa, volevo annunciare agli ascoltatori, da domani il microfono aperto delle 8.30 non sarà più condotto da me, ma dal nuovo direttore Gianfranco Fabi, che tra altre cose annuncia novità nel modo di condurre questo spazio di Radio 24. Io ringrazio intanto gli ascoltatori e che con passione, anche nei giorni più isolati, agosto per esempio, sono intervenuti in numero e ringrazio il direttore che ci lascia, Giancarlo Sant'Almassi, a cui va il merito di aver portato Radio 24 a livelli di successo di oggi. Io comunque, come informazione per gli ascoltatori, continuerò a condurre la rassegna stampa da lunedì al sabato dalle 7.20 alle 8. Grazie ci diamo appuntamento. Oggi il microfono aperto sarà un po' particolare perché probabilmente Radio 24 seguirà in diretta e il discorso del ministro Giulio Tremonti e quindi, come dire, dovremo dividerci le telefonate con invece l'intervento del ministro. A dopo.